Qualcuno vuole rispondere per cortesia? Luce, speranze, segnali di partenza, poi la reazione di fede e intolleranza. La religione richiama l'obbedienza, con arroganza, cinismo e indifferenza. Dico e non dico, ma se non dico nego, visto che prego, del resto me ne frego. Nego il diritto di chi mi è differente, e non affermo, ma nego solamente. Dico e non dico, ma vedo quel che vedo, e non mi piace, lo dico e non mi piego. Credo alla scienza, all'etica, al progresso, non ad un Dio che è fobico sul sesso. Credo alla vita che è ricca e proteiforme, non alla Chiesa che ostacola riforme. Credo alla voce di un Dio che ha amore e pace, e non ai dogmi di un dittatore truce, che veste bianco e ha il cuore nero pece. Dico e non dico, ma se non dico nego, visto che prego, del resto me ne frego. Nego il diritto di chi mi è differente, e non affermo, ma nego solamente. Dico e non dico, ma vedo quel che vedo, e non mi piace, lo dico e non mi piego. Dico e non dico, ma vedo quel che vedo, e non mi piace, lo dico e non mi piego. Se è Dio, digli che sono occupato.